Eh sì, parliamo di potenziali assunzioni ed è una cosa abbastanza rara in questo periodo con la disoccupazione al 10%. Ne parliamo perché oggi il ministro dell'Ambiente Corrado Clini ha trasmesso al Consiglio dei Ministri un piano per i settori dell'economia verde che secondo il ministro è in grado di generare 60.000 nuovi posti di lavoro. È un piano, lo dico subito, di agevolazioni sostanzialmente fiscali per i cosiddetti settori verdi, però siccome 60.000 è una cifra alta, vorremmo parlarne direttamente con il ministro dell'Ambiente Corrado Clini. Buonasera ministro. Buonasera, eccomi qua. Allora, 60.000 posti di lavoro in quanto tempo? Iniziamo a chiedere questo. Nei prossimi due anni. Nei prossimi due anni. E qui voi prevedete un credito d'imposta alle imprese che assumeranno a tempo indeterminato giovani, certo, che abbiano meno di 35 anni, con almeno il 30% sotto i 28 anni, da impiegare in quali settori? Ma direi quelli di punta per l'economia verde. Prima di tutto la gestione del territorio, la protezione del territorio, soprattutto nelle aree che riguardano la prevenzione del rischio idrogeologico e del rischio sismico. Mm-hmm. Perciò imprese che operano in due aree principali, una quella della ristrutturazione edilizia ai fini della messa in sicurezza e l'altro in quelle che riguardano infrastrutture per la protezione di aree vulnerabili. Poi nel settore delle fonti rinnovabili, il nuovo fotovoltaico, sì, il solare a concentrazione, il solare termodinamico, la geotermia, tenendo conto che in tutte queste quattro aree noi abbiamo già imprese che operano al top delle tecnologie a livello mondiale e perciò questa misura serve anche in qualche modo a sostenere la competitività di queste imprese, certo, in un momento nel quale hanno difficoltà, anche se non altro per l'accesso al credito. Ministro, mi faccia capire, io sono un'impresa che lavora per esempio nel fotovoltaico, no? Che realizza pannelli. Decido di assumere, se intanto c'è una norma per cui le nuove assunzioni devono essere aggiuntive rispetto alla media totale degli addetti negli ultimi 12 mesi, cioè per cui non è una risorsa che tu vai a integrare, è in più, perché sennò il gioco si scopre. Però è in più, certo, sono assunzioni aggiuntive. Ecco, quindi non è che siccome se n'è andato un dipendente e da 40 passi a 39 ritorni a 40 e lì hai il credito d'imposta, devi assumere il 41esimo, diciamo. Però il credito d'imposta, questa è l'indicazione. Il credito d'imposta coprirà il 40% del costo salariale di ogni singolo non addetto. Per cui se io sono un imprenditore e voglio assumere il 41esimo dipendente, che devo fare? Cioè, rientro anch'io, no, in questo? Certo, c'è una procedura molto semplice, peraltro, che passa attraverso l'INPS, per cui viene certificata questa attività e questa attività viene scaricata dalle tasse, un credito d'imposta per il 40%. Per il 40%. Abbiamo scelto la strada più semplice, più diretta, non quella tradizionale della erogazione di finanziamenti, perché l'erogazione di finanziamenti ha procedure lunghe e spesso discrezionali. Qui invece sostanzialmente viene riconosciuto un lavoro, viene riconosciuta un'attività che viene svolta e certificata. Tenga conto che ci siamo concentrati su questi settori perché comunque guardando il trend degli ultimi anni questi sono i settori nei quali c'è maggiore dinamicità, per cui in qualche modo la nostra non è una forzatura, è una misura di accompagnamento a un trend che comunque è un trend positivo, soprattutto nel settore delle fonti rinnovabili. Ecco, su questo però voi vi aspettate... Due anni e mezzo abbiamo... Prego. No, dico, su questo voi vi aspettate però minori entrate per 360 milioni di euro negli anni 2013, 2014, 2015. 2012, come... 2013, 2014, perché ecco, è una misura che dovrebbe partire subito. Ah, perfetto, quindi un anno prima. Ma come pensate di trovare la copertura? Perché 360 milioni, insomma, in questo la copertura periodo... La copertura l'abbiamo trovata attraverso la rimodulazione di risorse che erano state assegnate negli anni scorsi, parliamo di a partire dal 2007, e che non sono state utilizzate. Questa è tra l'altro uno degli aspetti che dovrebbero anche orientare la spending review. Noi stiamo cercando, almeno per quanto riguarda il settore dell'ambiente, di valorizzare le risorse che le leggi finanziarie o i fondi europei avevano assegnato negli anni scorsi che non erano state spese. Per l'area dei fondi strutturali, peraltro, siamo già riusciti a rimobilizzare 850 milioni di euro per il dissesto idrogeologico e 1,8 miliardi per la depurazione delle acque nelle regioni del Mezzogiorno, per cui non è una novità. Avendo trovato queste ulteriori risorse, abbiamo optato però per la formula del credito d'imposta piuttosto che per l'erogazione a enti pubblici, anche perché esistevano le condizioni per poterlo fare, certo, dal punto di vista finanziario e dal punto di vista giuridico. Ah, quindi voi dite, insomma, la rimodulazione di altre risorse disponibili non impiegate vi darà la copertura. Ho ancora due domande veloci per lei. Sulle rinnovabili, prego. C'è stata molta polemica negli ultimi due anni, perché in sostanza sintetizza in maniera un po' brutale: le agevolazioni per il fotovoltaico sono state così forti che, oltre che a pesare molto in bolletta, diciamo, hanno creato, alcuni sostengono, una distorsione nel mercato, e cioè grandi gruppi internazionali che applicano i pannelli solari, ma a vantaggio loro, non a vantaggio poi della comunità italiana, per non parlare poi dell'ingresso della criminalità organizzata in alcune aree del sud. Gli stessi agricoltori si sono lamentati in alcuni casi che i terreni venissero a questo punto messi a pannello, diciamo così, più che coltivati. Ecco, non c'è stata una manica un po' troppo larga sulle fonti rinnovabili, sul fotovoltaico nello specifico? Ora, gli incentivi che sono stati introdotti nel 2008 e che sostanzialmente hanno funzionato fino al 2010 hanno sicuramente creato un effetto distorsivo ed hanno alimentato una forte speculazione. Questa è la ragione per cui già il governo precedente aveva drasticamente ridotto gli incentivi al fotovoltaico. Noi abbiamo ulteriormente rimodulato questi incentivi, avendo però un obiettivo, quello di assicurare la continuità del settore, perché nel frattempo, nonostante la speculazione e la distorsione, il settore delle rinnovabili nel nostro paese ha creato in 2 anni e mezzo oltre 120.000 nuovi addetti e ha dato origine a imprese che rappresentano un patrimonio per il nostro paese, vero, per la nostra economia. Io invece l'ultima domanda che ho per lei la volevo sul petrolio, perché lei già una settimana fa ha detto, insomma, è ora che i petrolieri rinuncino un po' di guadagno, se ho ben capito. Il petrolio è a $85 oggi, però alla pompa non si vede niente come benzina. Sappiamo che è il 30% solo, il resto sono tasse e accise IVA, quindi anche il governo su questo potrebbe mettere qualche misura anticiclica, ministro, perché se continuate a incassare di più con la benzina e col petrolio così alto, forse si poteva rinunciare a qualcosa nelle accise. Ma detto questo, lei a che punto è? Perché glielo direte ai petrolieri, dovete guadagnare di meno, è questo che volete dirgli? Allora, quello che noi stiamo dicendo è di utilizzare un algoritmo per la valutazione del costo al consumatore finale in Italia del carburante che sia sensibile rispetto alla caduta del prezzo del barile o alla variazione del prezzo del barile, perché quello che avviene è che gli effetti della variazione del prezzo del barile sul costo al consumatore finale sono ritardati e marginali. E allora c'è qualcosa che va chiarito qui, e questo è un tema sul quale evidentemente con l'Unione Petrolifera, le compagnie petrolifere, bisognerà fare chiarezza. Grazie al Ministro dell'Ambiente Corrado Clini. Arrivederci, buon lavoro.